Buongiorno. Grazie, buongiorno. Buongiorno e benvenuti a questa terza lezione di jazz che rientra nella serie che chiamiamo Oltre la musica, perché intreccia la musica con i fatti storici, con determinati momenti della nostra storia, della nostra vita e anche è un modo di dire anche oltre la musica sottintesa jazz, cioè sono incontri nei quali raccontiamo cosa succede al jazz in determinati momenti della sua storia rispetto ad altre musiche. In genere chi non frequenta il mondo del jazz, ma devo dire anche chi lo frequenta, ha un'idea sempre del jazz molto di un ambiente chiuso, un po' settario. Adorno associava gli ascoltatori di jazz a quelli della musica barocca e li definiva ascoltatori risentiti, cioè persone che pensano che la loro musica sia importante e sono risentiti del fatto di non ricevere il dovuto riconoscimento e quindi diventano delle sette in un certo senso. Ma a parte questo concetto che ormai direi che è superato, è anche vero che il mondo del jazz ha vissuto delle fasi, come posso dire, inclusive e delle fasi esclusive. La stessa parola jazz è una parola che in certi momenti è andata a denotare musiche molto diverse fra di loro. Per esempio negli anni 20 qualsiasi cosa fosse sincopata veniva chiamata jazz. E invece altre cose che gli altri momenti in cui la parola jazz diventa molto esclusiva, cioè jazz è solo quella cosa e tutto il resto non è jazz. Questo è per esempio l'atteggiamento del jazz nella fine degli anni 50, primi anni 60, in cui quando ad esempio si affacciò questa nuova musica, che più tardi fu chiamata free jazz, venne semplicemente chiamata new thing, una cosa nuova, pur di non chiamarla jazz, perché jazz era qualcosa di molto specifico. Io credo che oggi siamo per esempio in una fase della storia in cui abbiamo una visione inclusiva della parola jazz, e cioè ieri sera qui, non c'ero purtroppo, ma c'è stata Maria Pia De Vito che faceva una cosa jazz su Pergolesi, ecco, nessuno si scandalizza che possa essere sussunto sotto la parola jazz un progetto su Pergolesi, o quando nell'80 Umbria Jazz, mi pare che fosse l'80, 82 Umbria Jazz, invitò Sting a suonare con l'orchestra di Gil Evans, sì, qualcuno mugugnò, ma insomma non fece molto scandalo il fatto che un musicista di rock o di pop fosse invitato in un festival del jazz. In realtà la più grande diatriba su questo essere inclusivi o esclusivi intorno alla parola jazz è avvenuta proprio quando il jazz ha incontrato, anzi, come dice il titolo di questa conferenza, si è scontrato con il rock. Perché questo incontro è stato traumatico soprattutto per gli appassionati di jazz e per la critica di jazz? Perché è avvenuto nel 1967, che non solo è un anno importantissimo per la storia, diciamo, della nostra civiltà, come sapete dall'arrivo poi un anno dopo il Maggio francese, i moti di Berkeley, la guerra del Vietnam, le pantere nere, i diritti civili, i grandi movimenti che stanno nascendo un po' in tutto il mondo, ma è un momento che per il jazz è un momento di grande crisi, mentre per il rock è un momento di l'anno dell'esplosione in realtà globale del rock. Quindi abbiamo da un lato una forza musicale, quella del jazz, che è in profonda crisi. Dall'altro abbiamo una forza musicale, quella del rock, che è in piena espansione. Perché? Perché questi due movimenti, uno discendente e l'altro ascendente, sono legati a un fattore generazionale. Il jazz, anche se oggi è una musica frequentata da persone, diciamo, almeno over 30, se non over 40, il jazz in realtà è nato e per molto tempo è stata una musica per ragazzi. Quella che oggi può essere il pop o la musica da ballo di oggi, che affascina i quindicenni, sedicenni, diciottenni, ventenni, venticinquenni. Ecco, il jazz è nato come una musica suonata da post-adolescenti per un pubblico di post-adolescenti. E tale è stato il jazz grosso modo fino agli anni 40, quando si è iniziata una divaricazione tra la musica e il suo pubblico, quando la musica ha smesso di essere sempre più una musica per giovani e i giovani si sono invece rivolti ad altre musiche, in particolare il pubblico nero a partire dal secondo dopoguerra si è rivolto sempre più prima al rhythm and blues e poi al soul, lasciando il jazz ad un pubblico invece più maturo, con qualche eccezione negli anni 50 per il pubblico bianco delle università che seguiva gruppi come per esempio quello di Dave Brubeck, tanto, oppure anche lo dello stesso Miles Davis, per darvi un'idea. Ma questa divaricazione generazionale si è fatta più acuta negli anni 60. Con l'avvento del rock, con l'arrivo dei Beatles, prima di Elvis Presley, d'accordo, e poi dei Beatles, e poi della grande esplosione del rock degli anni 60, il rock ha prosciugato anche quel poco di pubblico di bianchi, i neri seguivano soprattutto il rhythm and blues e il soul, da Otis Redding a Aretha Franklin a James Brown a Sam Cooke, ma anche il pubblico bianco viene prosciugato dal jazz e viene spostato, si sposta verso questa nuova musica che è evidentemente più in sintonia con le esigenze dei ragazzi degli anni 60. A partire per esempio dall'uso degli strumenti elettrici, da un certo tipo di groove ritmico, da una certa energia che evidentemente risponde di più ai bisogni espressivi della gioventù degli anni 60. Questa cosa provoca, tra le altre cose, uno spostamento letteralmente dei soldi dal mondo del jazz al mondo del rock. Cosa vuol dire? Vuol dire che per esempio i produttori delle grandi case discografiche, penso alla CBS ad esempio, smettono di produrre dischi di jazz. Per esempio smettono di rinnovare i contratti a personaggi come Duke Ellington o Louis Armstrong, che per tanti anni avevano avuto in catalogo. Basta, spariscono dal loro catalogo, non fanno più abbastanza soldi. E quindi il mondo del jazz vede l'impoverirsi delle risorse, i festival di jazz ospitano sempre più gruppi pop e rock per riempire la platea, i club chiudono. Pensate che alla fine degli anni 60, proprio intorno al 1967, a New York, ho detto New York, c'erano circa 3 club di jazz. Quanti ce ne sono oggi a Roma? Forse poco, più o meno così. 3 club di jazz. 10 anni prima ce n'erano 30. Questo sapete cosa vuol dire in termini per chi suona jazz banali in quegli anni? Che non c'è lavoro, non si suona, non ci sono soldi, perché non c'è un pubblico sufficiente a sostenere questo impatto dell'arrivo del rock. Quindi si guarda al rock dal punto di vista jazzistico con una certa insofferenza, ostilità, tensione. Alcuni musicisti provano a adattarsi, per esempio dei musicisti jazz cominciano a suonare repertorio più pop o più rock, qualcuno prova ad adottare gli strumenti elettrici, pensate che so, l'orchestra di Count Basie o Ella Fitzgerald o lo Stan Getz, che provano a utilizzare strumenti elettrici con risultati esteticamente mediocri, evidentemente il problema non è lì, è altrove. Ma in ogni caso c'è questo problema, e il problema è avvertito acutamente soprattutto dai musicisti che nel 1967 avevano 40-50 anni, cioè musicisti cresciuti negli anni 40 che ora si trovano completamente spiazzati. Diverso invece è il caso per dei musicisti di rock, ma prima di vedere questo aspetto generazionale vorrei ricordarvi alcuni eventi fondamentali nella scena musicale del 1967. Intanto viene nel luglio del 67 c'è il Monterey Pop Festival, che è praticamente una specie di atto di nascita del rock. Basti ricordare insomma il concerto di Jimi Hendrix, che è un momento epocale del festival. È l'anno in cui viene inciso, uscirà l'anno dopo, Electric Ladyland di Jimi Hendrix, che è un disco fondamentale della sua carriera. Vado un po' velocemente, esce Sgt. Pepper's dei Beatles, sempre nel 67, e su questo non devo, credo, proprio dire niente. Esce il primo album dei Grateful Dead, su cui credo riusciremo poi a dire qualcosa più tardi. Viene fatto il tour americano dei Cream, parleremo tra poco, gruppo inglese che si era formato poco tempo prima e molto innovativo, e il tour americano dei Cream, un po' come era stato il tour dei Beatles qualche anno prima, lascia un segno profondo sui musicisti e sul pubblico americano. Il musicista inglese Gordon Beck, ne parleremo, pubblica l'album Experiments with Pops, si fondano i soft machine in Inghilterra, vengono lanciati negli Stati Uniti i Blood, Sweat and Tears. Wes Montgomery, chitarrista jazz, qualcuno lo conoscerà, penso, pubblica un album che si intitola... Ah, scusate, no, prima Woody Herman suona con la sua orchestra Woody's Boogaloo, è uno dei primi pezzi in cui si prova a mettere insieme jazz e pop. Questo al Festival del Jazz di Monterey. Vi dicevo, Wes Montgomery pubblica quest'album, Going Out of My Head, proprio nel 67. È il tentativo delle case discografiche jazz di lanciare un musicista jazz, in questo caso un chitarrista, che suona pari pari dei pezzi pop. E il disco ha un successo enorme e segna come dire, una specie di strada che molti tenteranno di percorrere per avere successo presso il pubblico del pop. Don Ellis, di cui parleremo, pubblica l'album Electric Bass. Gary Barton pubblica l'album Duster, che è considerato uno dei primi esempi di fusione fra jazz e rock. Jeremy Stig pubblica l'album Jeremy Stig and the Satyrs. Voi direte, chi è Jeremy Stig? Questa è una cosa, è uno degli aspetti di questa nuova conferenza. Steve Marcus, un altro nome dimenticato, e poi muore in quell'anno anche John Coltrane. La morte di John Coltrane nel mondo del jazz viene percepita come un trauma molto profondo, da cui il jazz, diciamoci la verità, fa fatica proprio a riprendersi, perché Coltrane era visto come uno che apre delle strade nuove e ti spiega anche come seguirle. Quindi la morte improvvisa di un musicista che in quel momento stava facendo cose ai più poco comprensibili, getta letteralmente nella confusione il mondo del jazz. Avrete visto alcuni nomi che forse a qualcuno suoneranno nuovi: Gordon Beck, Don Ellis, Jeremy Stig, Steve Marcus. La storia dell'incontro fra il jazz e il rock è una storia fatta, secondo me, di due caratteristiche. La prima è una storia generazionale, vedrete che ho messo molte date di nascita quando parleremo di alcuni musicisti. Cioè, è la storia di musicisti giovani, nati fra la fine degli anni 30 e i primi anni 40, che quindi nel 1967 hanno più di 20 anni, 24, 25, 26 anni, qualcuno anche qualcosa di più fino ai 30 anni, che in quanto giovani non hanno le preoccupazioni dei musicisti di jazz più anziani, gli ultra quarantenni, che non sanno come orientarsi di fronte a questa nuova musica. I giovani hanno questa caratteristica in quegli anni, se ne fregano delle barriere, che lui suoni rock e quello suoni jazz, tutti facciamo musica e magari abbiamo delle idee nuove, spesso influenzate da Coltrane, proviamo a suonare insieme. La storia dell'incontro fra il jazz e il rock, lo vedremo, è anche una storia di musicisti di estrazione diversa che suonano insieme in virtù del fatto che hanno la stessa età e hanno la stessa curiosità. Qualcuno è più orientato verso un genere, qualcuno verso un altro, ma condividono la stessa fame, la stessa ansia di novità e di sperimentazione, perché l'incontro fra il jazz e il rock è una storia di sperimentazione. Una parte di questa sperimentazione viene non dagli Stati Uniti, ma viene dall'Inghilterra, dove attraverso lo sviluppo più rock di una tradizione blues dai primi anni 60, si forma un gruppo nel 1966, un trio, come sappiamo i Cream, che fonde blues, rock. E cosa prende dal jazz questo gruppo rock? Prende dal jazz una cosa che Coltrane aveva portato nel jazz, cioè l'idea di lunghe improvvisazioni. Cioè lunghi assoli di chitarra, per esempio, di Eric Clapton, che sono l'eredità di un solismo jazz che proietta le sue idee su tempi molto ampi, che si sviluppa spesso su dei pedali, cioè su delle note fisse. Si chiama jazz modale, ne abbiamo parlato un po' nella scorsa serie delle lezioni di jazz a proposito di Kind of Blue, su queste note fisse, un basso regolare su cui puoi suonare 5, 10, 15 minuti, arrivando, diciamo, quasi a una sorta di trance, portando il pubblico al delirio in un crescendo di virtuosismo. Ecco, anche il virtuosismo, la capacità di suonare veloce, agile, inventando delle tecniche, delle sonorità e intanto costruendo un assolo complesso, sono eredità queste del jazz. C'è un altro aspetto che si coglie bene nell'attività dei Cream che stiamo per ascoltare, e cioè un'altra cosa del jazz è la complessità ritmica. Il rock non si era certo contraddistinto per complessità ritmica, semplificava invece certi elementi sia del jazz sia del rhythm and blues con dei groove più incisivi, marcati, diretti. I Cream invece esaltano una cosa che è caratteristica del jazz ed era meno presente nel rock, l'interazione fra i musicisti. Quando lo sentirete adesso, Eric Clapton fa il suo assolo, il basso di Jack Bruce in realtà improvvisa una specie di secondo assolo insieme alla chitarra, in un gioco polifonico, mentre la batteria di Ginger Baker interagisce con gli altri come se fosse Elvin Jones nel gruppo di John Coltrane. Tutto questo accade su un repertorio molto particolare. Alcuni brani, qui non, quello che ascolteremo non ha questa caratteristica, hanno una cosa curiosa su cui torneremo, cioè alcuni pezzi dei Cream introducono i tempi dispari. Questa è una novità nel rock, cioè non si conta in 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ma si conta per esempio in 5 o in 7, che sono ritmi caratteristici di altre culture, per esempio della cultura balcanica, o più ancora, e quella è una delle fonti, della musica indiana, che avrà, poi lo vedremo, una grande influenza sia sul jazz sia sul rock nel corso della fine degli anni 60. Questa novità dei ritmi dispari è molto importante perché poi quando i Cream faranno il loro tour negli Stati Uniti portano questa sensibilità anche di ritmi dispari e questa, come dire, questa concezione virtuosistica del solismo anche negli Stati Uniti. La loro base è il blues tradizionale, per esempio quello di Robert Johnson. Noi adesso ci vediamo una breve esecuzione di una celebre brano di Robert Johnson inciso negli anni 30, Crossroads. Vediamo questo filmato, dura qualche minuto, integrale di questo Crossroads. Qui non ci sono i tempi dispari, ma c'è un bellissimo assolo di Eric Clapton con questo effetto molto poliritmico. Down to the crossroads, there's now no mind. questa complessità, data poi da un organico molto leggero, no? Chitarra, basso, batteria, senza fiati, altro, senza tastiere, è effettivamente il risultato di una presenza capillare del jazz, anche tra i bluesmen inglesi dei primi anni 60. Un gruppo che suona così non può non aver ascoltato Coltrane, non può non aver ascoltato Miles Davis, non può non aver ascoltato il meglio del jazz di quegli anni, perché c'è proprio questo tipo di apertura che viene dal jazz, oltre ad esserci un groove e un suono del rock. Ci sono altri gruppi rock in quegli anni che assorbono degli elementi del jazz e ne, come dire, trasformano quindi il rock attraverso questi elementi. Di qualcuno parleremo dopo. Il più importante di questi sono i King Crimson, naturalmente, ma consentitemi di saltare questo capitolo per arrivarci dopo. Ma intanto, sempre tra il 1967 e 68 in Inghilterra, arriva un altro gruppo molto importante che sono i Colosseum. Che ha avuto una storia abbastanza breve, ma l'importanza dei Colosseum, il cui leader era il batterista John Heisman, sta anzitutto in una più marcata presenza del jazz all'interno dei gruppi, dei ritmi e dei groove rock, in particolare per la presenza del sassofono. E poi perché i Colosseum introducono qualcosa che in realtà anche i King Crimson stavano già facendo. Cioè strutturare i pezzi come un montaggio di tanti altri pezzi. Cioè il pezzo diventa una sorta di suite di tanti elementi differenti, con quindi cambi di tempo, cambi di atmosfera, il pezzo rallenta, poi riparte. Avete sentito quello dei Cream? Parte in quarta con quel ritmo, con quel groove e va così dritto fino alla fine. Invece i Colosseum, prendendo delle esperienze soprattutto della composizione jazz e di qualcosa che era già nel progressive rock di quegli anni, introducono degli elementi jazz all'interno di questa struttura più ampia. Allora io vi farei ascoltare questa, diciamo, versione live in uno studio televisivo di un loro classico che è Those Who Are About to Die. Ovviamente farete la tara al montaggio psichedelico che avete già potuto in parte, come dire, apprezzare per i più deboli di stomaco nel montaggio dei Cream. Qui siamo è ancora più audace. Tra l'altro vedrete anche dei nomi perché viene da una trasmissione televisiva e quindi ci sono anche i nomi di quelli che partecipano alla trasmissione, anche se non sono quelli che suonano in questa clip. 17, 14, 1, 2, here we go! Ecco, i Colosseum avevano un controllo della struttura, della forma, una concezione compositiva di questa fusione fra jazz e rock che non aveva uguali nei gruppi di quegli anni. È una, come dire, una struttura estremamente affascinante, anche se poi non sono gli unici, perché i King Crimson stanno andando nella stessa direzione. Avete sentito che qui la fusione fra gli elementi jazz, anche proprio i groove jazz, è molto più marcata rispetto ai Cream. Uno dei motivi per cui questo accade in Inghilterra e non negli Stati Uniti è che in Inghilterra il mondo del jazz non vive una crisi come sta accadendo negli Stati Uniti, perché il mondo del jazz in Inghilterra era già in crisi da un sacco di tempo. Cioè, praticamente il jazz in Inghilterra è stato silente, semi-morto, diciamo così, letteralmente in pausa, grosso modo fino alla fine degli anni 50, primi anni 60. Dopodiché la scena si è rimessa in moto, sono venuti fuori musicisti di estrazione molto diversa, sia quelli delle avanguardie come Ivan Parker, dal Canada è arrivato Kenny Wheeler, Derek Bailey, poi arrivò a metà degli anni 60 la grande ondata dei profughi, musicisti profughi dal Sudafrica che fuggivano dal momento più duro e più feroce della repressione dell'apartheid e arrivarono a Londra, e poi c'erano i giovani musicisti di area blues come Eric Clapton che stavano sperimentando altre cose mescolando il jazz e il rock. Quindi Londra o Canterbury, nel caso della scuola di Canterbury, furono veramente i poli di fusione di idee diverse, di musicisti di estrazione diversa, ma ripeto, generazionalmente tutti molto vicini. Uno di questi musicisti particolarmente brillanti è stato Gordon Beck. La cosa affascinante di questa storia che facciamo oggi è che è piena di musicisti che poi hanno preso o altre strade o sono stati dimenticati o hanno fatto semplicemente altre cose. Gordon Beck è uno di questi, è morto purtroppo di recente. Nel 67 Beck, che era un pianista inglese di estrazione squisitamente jazz, tentò una cosa che stava a cuore a molti jazzisti, cioè prendere il repertorio del pop o del rock e adattarlo al jazz. Qui lo fa con un quartetto che incide questo disco fondamentale, Experiments with Pops, 1967. Notate i nomi del quartetto, c'è un giovanissimo chitarrista inglese di nome John McLaughlin, non vi devo dire poi che carriera farà John McLaughlin, Jeff Klein alla contrabbasso e c'è Tony Oxley alla batteria, uno di quei musicisti che poi abbraccerà invece le esperienze dell'avanguardia radicale e che però in questo disco suona pezzi come per esempio Norwegian Wood dei Beatles, che viene adattato a jazz. Questo tanto per farvi capire che quando Herbie Hancock vi rifila i New Standards nel 2000, in realtà non sta facendo un'operazione tanto nuova, perché Gordon Beck nel 1967 già provava a tradurre in jazz i classici di quel momento del pop. bello, eh? C'è un gusto nell'operazione di Gordon Beck che lo rende ancora freschissimo, attuale, non c'è kitsch, molto, non è per niente datato. Tra l'altro Beck in questo disco si confronta anche con classici del soul, del country, cioè non si pone limiti da questo punto di vista. E ovviamente la sua estrazione è chiaramente jazz, ma l'operazione gli riesce perché? Perché ha 30 anni quando fa questa cosa, cioè è un musicista che ha, come dire, è cresciuto con questa musica, non si deve sforzare come uno Stanghezzo, un Count Basie o un Ella Fitzgerald di un'altra generazione per avvicinarsi alla sensibilità di quei brani, ce l'ha dentro, e ancora una volta è un problema generazionale. Tra i gruppi più importanti ancora della scena inglese, forse il più importante di tutti, se escludiamo i King Crimson, su cui torneremo dopo, ci sono i Nucleus, diretti dal compianto trombettista Ian Carr. Forse qualcuno di voi a casa ha la sua splendida biografia di Miles Davis, che Arcana pubblicò molti anni fa, che oggi è fuori catalogo, purtroppo. E lui, Ian Carr, appunto il trombettista. I Nucleus hanno una storia strana, è un altro di quei gruppi che non ha vissuto a lungo e pubblicarono il loro primo album nel 1970, Elastic Rock, notate già la parola rock nel titolo, anche se di fatto praticamente è un disco di jazz. E questo Elastic Rock, che credetemi è davvero un capolavoro se qualcuno di voi non dovesse conoscerlo, è un disco veramente curioso perché somiglia in maniera impressionante a In a Silent Way di Miles Davis, che era stato registrato nell'inverno del 69, all'inizio del 1969, e quindi uno potrebbe dire magari i Nucleus hanno copiato, diciamo così, da In a Silent Way di Miles Davis. La verità è che In a Silent Way di Miles Davis fu distribuito in Inghilterra solamente alla metà del 1970. Quando i Nucleus concepirono il loro album, che tentava di mescolare certe atmosfere modali con i groove del rock, In a Silent Way non l'avevano affatto ascoltato. E questa è una delle cose interessanti della storia, cioè che in questo caso ci sono delle idee che prendono forma in Inghilterra a prescindere da quello che sta succedendo negli Stati Uniti. Benché siamo nell'epoca delle comunicazioni di massa, Davis non aveva fatto alcun tour in Europa in cui portava quel tipo di repertorio. O meglio, lo farà alla fine del 69, ma nell'estate e poi alla fine del 69, ma portando tutt'altra musica, come vedremo più tardi. E non la suonò a Londra, quindi i Nucleus, questa roba, cioè questi esiti, giunsero, come dire, autonomamente. In realtà qualche ispirazione americana c'era, sentite questa. Elastic Rock. Questo groove, in realtà, sentirete, viene incredibilmente simile a In a Silent Way, sentite. È un frammento. Avete sentito l'idea di un basso statico, la batteria che marca questo groove, molto rapido a semicrome, e una melodia sospesa sopra. Qui c'è un assolo di Davis, nel caso di Torrid Zone da Elastic Rock era una melodia chiaramente ispirata a Maiden Voyage di Herbie Hancock, che tra l'altro è un pezzo importantissimo perché è uno dei primi pezzi che scardina la scansione regolare e ha questo accompagnamento irregolare tan tan tan tan pa pipa tan tan tan, così, di questo genere. In realtà c'è un altro elemento ancora più affascinante di corrispondenza fra In a Silent Way e Elastic Rock dei Nucleus, fra Stati Uniti e Inghilterra. E questo elemento è dato da i riff del basso. In a Silent Way c'è un momento in cui a un certo punto il basso innesca un riff che sale, che sentiremo adesso subito, anzi. Marcato il tipo di movimento ascendente viene a una corrispondenza con uno dei primi brani dell'album Elastic Rock, in cui c'è lo stesso movimento ascendente, su cui invece dell'assolo di tromba abbiamo una melodia un po' come quella di Torrid Zone, sospesa, suonata dal sax e dalla tromba, ma la cosa eccezionale è che questo accompagnamento è su un ciclo ritmico incredibilmente complicato. Non si conta in quattro come quello di Miles Davis. Ma è un ciclo ritmico che alterna 13, 15, 20. Sono dei numeri assurdi, come contare in 13 ottavi, 15 quarti. È un ciclo complicatissimo, lungo e molto articolato, che evidentemente deriva dallo studio che Yankar e i suoi amici avevano fatto della musica indiana, applicando, e ovviamente anche dalla, tenete ben presente, siamo nel 70, dalla strada aperta dai Cream e anche dai King Crimson, che utilizzavano regolarmente tempi dispari, non regolari, assolutamente asimmetrici, per creare dei groove rock, invece del solito quattro quarti. Ci ascoltiamo per intero questo frammento che si chiama 1916, da Elastic Rock, che sembra proprio una traduzione asimmetrica del riff di Miles Davis, molto inglese per questo. We'll be right back. poi la traccia proprio sfuma originariamente in questo modo. Le corrispondenze fra In a Silent Way e Elastic Rock dei Nucleus sono, secondo me, sintomatiche proprio di uno spirito del tempo che viene percepito dai due lati dell'oceano, sia in Inghilterra sia negli Stati Uniti. Vorrei concludere questa rapida panoramica della scena inglese con uno dei gruppi più significativi, e cioè i Soft Machine, che come sapete hanno cominciato la loro carriera con un album, il primo che aveva molti testi, molta parte cantata. In genere, più c'era in questo genere di operazioni, più c'era il cantato e più ci si rivolgeva a un vasto pubblico interessato al pop. Più i pezzi erano strumentali, più ci si sentiva elitari, in un certo senso. Ed è il percorso proprio seguito dai Soft Machine, album dopo album. Sapete, i titoli degli album dei Soft Machine sono semplici numeri, 2, 3, 4, eccetera, eccetera, e indicano appunto il numero di album progressivo. E quello che più avvia, diciamo, l'incontro fra il pop inglese e il jazz nei Soft Machine, il secondo album, 2, appunto, che è basato sostanzialmente su due facciate dell'LP. Ogni facciata è una lunga suite, un po' nello stile dei Colosseum, cioè in cui vengono messi insieme brani molto diversi, cuciti in una lunga suite di 17-18 minuti. È un'idea che peraltro loro, più che dai Colosseum, ripresa da Frank Zappa, un altro nome tutelare di tutta questa storia, che aveva, come dire, proprio anche in concerto, no? Stava sviluppando questa idea di performance fatte di episodi molto diversi, cuciti insieme attraverso dei segnali sonori, cosa che gli consentiva poi di montare i pezzi come se fossero dei film, praticamente, come se fossero delle narrazioni quasi cinematografiche o teatrali, magari anche da rimodulare lungo la strada a seconda dei segnali che possono chiamare pezzi diversi nel momento in cui vengono montati insieme. Io vi faccio ascoltare un frammento dal secondo, dalla seconda facciata dell'album, che si intitola Esther's Nose Job. Interessante perché i Soft Machine hanno lavorato in maniera sistematica, ancor più dei Nucleus, sui tempi dispari. Cioè, quasi tutti i pezzi dei Soft Machine dall'album numero 2 in poi si contano in 5, in 7, in 13, in un 9 asimmetrico. Cioè, sono tempi completamente dispari che suonavano molto singolari all'epoca ed ebbero una grossa influenza, per esempio, anche in Italia. Non rientra nel nostro ambito cronologico, ma gli Area, ad esempio, sicuramente subirono, o il Perigeo, subirono l'influenza anche dei Soft Machine nell'utilizzo di questi tempi dispari. Qui sentiamo anche Robert Wyatt, che come sapete era la mente del gruppo, anche cantare in questo breve episodio, ma non è una canzone tradizionale perché il tempo appunto è dispari. E tutto l'episodio che ascoltiamo e si conta in 7. Vi aiuterò magari adesso a contare insieme. Questo è ispirato a Miles Davis, questo episodio. Ed in 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 7. Anche questa sperimentazione formale, questo cambiare continuamente atmosfere, metri, credetemi, nel jazz di quegli anni la facevano alla fine l'orchestra di Sun Ra, l'Art Ensemble of Chicago, quindi in una dimensione molto ristretta, elitaria, sconosciuta ai più, mentre il jazz rock inglese stava portando questa sperimentazione formale al grande pubblico, anche se poi in realtà i Soft Machine hanno avuto più successo, come dire, un successo postumo piuttosto che durante la loro carriera. Questa è una panoramica molto sommaria della scena inglese che, come abbiamo visto, ha però delle corrispondenze con quella statunitense, alcune delle quali sono, come dire, come nel caso di Miles Davis e dei Nucleus, delle coincidenze, in altri casi probabilmente ci sono stati veri e propri intrecci, incroci o i musicisti hanno attinto alle stesse fonti. Una di queste è la musica indiana. La musica indiana che era stata divulgata in Occidente da un grandissimo musicista che è scomparso di recente, che è Ravi Shankar, che cominciò a fare negli anni 60 dei tour negli Stati Uniti. Abbiamo visto addirittura nel 67 suona al Festival Pop di Monterey, e Ravi Shankar, dando anche lezioni in giro, per esempio da lezioni a John Coltrane, divulga sostanzialmente le idee e le tecniche della musica indiana. Una di queste tecniche è l'utilizzo, non sempre, non regolare, non sistematico, appunto di tempi dispari, 7, 9, 5, 13, eccetera. E naturalmente anche di forme di intonazione non tradizionale, non temperata. Avrete notato già nell'ascolto dei Soft Machine, ma questa cosa si coglieva anche nei Colosseum, dei Soft Machine, anche un interesse per la sperimentazione fonica, sonora, l'uso del distorsore, del wah-wah applicati alla chitarra, l'uso del, avete sentito già negli esempi precedenti, il piano Fender, il piano elettrico, un tentativo quindi di uscire dalle sonorità tradizionali della musica. Questa porta era già stata aperta dal più grande di questi musicisti che ha sperimentato fonicamente uno strumento tradizionale, cioè Jimi Hendrix, che aveva rivelato al mondo come la chitarra elettrificata in un certo modo e fraseggiando, come dire, con l'intonazione arcaica del blues sulla chitarra elettrica, beh, in quel modo si poteva ottenere una sonorità completamente nuova, in cui l'elettricità, l'energia diventavano un valore aggiunto. Tra l'altro era proprio questo uno dei fattori che sconcertava i jazzisti, abituati a suonare, i jazzisti più anziani, abituati a suonare strumenti acustici e a tirare fuori delle sottigliezze sonore attraverso lo strumento acustico, l'impatto fonico del rock li metteva completamente fuori gioco. Non sapevano come adattarsi a un mondo sonoro completamente diverso. Bene, c'è però un musicista che oggi è completamente dimenticato, se non devo dire per qualche cultore che ogni tanto capita di incontrare. Ci spostiamo negli Stati Uniti e questo musicista di culto è Don Ellis. Il trombettista Don Ellis, ci sono cultori di Don Ellis in sala? Qualcuno. Uno alza la mano, ho sentito un sì di là, almeno due, tre. Qualcuno alza la mano due volte per far credere che ce ne sono di più, ma insomma. Don Ellis è davvero un musicista di culto. È stato allievo del grande compositore George Russell, è emerso nei primi anni 60, ha suonato con Charles Mingus, il suo primo disco è ispirato a Karlheinz Stockhausen, ha scritto dei pezzi dodecafonici jazz, Negli anni 60 ha diretto una big band che adesso vedremo, che fino agli anni 70 è morto purtroppo prematuramente nel 78, notate la data di nascita, siamo sempre a metà degli anni 30, quindi generazionalmente in sintonia con quello che sta accadendo, e ha esplorato, Don Ellis ha esplorato poi in particolare sia il mondo della dodecafonia. Ha avuto un momento di fortuna nel 71 quando scrisse la colonna sonora del film Il braccio violento della legge, nel quale portò elementi di sperimentalismo e di dodecafonia dentro un film d'azione come quello di Friedkin. In particolare poi Ellis è stato un grande esploratore del ritmo, ha scritto anche un manuale sui ritmi, non solo sui ritmi jazz, sul ritmo in generale, ed è stato un grande esploratore sia dei ritmi balcanici più complessi, sia dei ritmi della musica indiana, oltre ad aver scritto dei pezzi con dei ritmi complicatissimi. In più è stato uno dei primissimi, non se lo ricorda quasi nessuno, a mescolare il jazz e il rock, le sonorità elettriche e i groove del rock con le improvvisazioni jazz, negli Stati Uniti con la sua big band. Già nel 1966-67, nel 67 l'abbiamo visto nella lista di prima, esce l'album Electric Bath, il bagno elettrico, dove c'è un brano che si chiama Indian Lady. Questo brano è un brano su tempi dispari, in più nella versione dal vivo, non sul disco, nella versione dal vivo che stiamo per vedere, Don Ellis fa anche una cosa tremenda per un trombettista jazz tradizionale, elettrifica la tromba. Fa una cosa che oggi vedete fare a Paolo Fresu, cioè degli aggeggi elettronici, dei distorsori, mette un microfono, lo vedrete, davanti alla campana e comincia a distorcere il suono della tromba come se fosse una chitarra elettrica. È una cosa mai vista prima, che poi Miles Davis stesso riprenderà nella metà degli anni 70. Noi vediamo solo un frammentino di questa esecuzione che è molto lunga, vediamo l'inizio con l'assolo di Ellis. Noterete, chi suona uno strumento ottone noterà un'anomalia. Ellis suona una tromba con quattro pistoni e non con tre. Personaggio eccentrico, eh? Suona con a parte le basette anni 60, come dire. Suona una tromba con quattro pistoni perché se la fece costruire apposta, perché in questo modo gli veniva più agevole suonare i terzi e i quarti di tono caratteristici della musica indiana. Quindi proprio per entrare, invece di suonare il sitar, suonare con la tromba delle intonazioni che non stanno nella musica occidentale. Questa è la versione live di Indian Lady al Festival di Tanglewood nel 1968. Sentite l'intonazione, il suono è un po' quello che è, però... Praticamente in 5 o in 10 se preferite. poi si interrompe. Giusto per farvi sentire l'assolo di Ellis, abbiamo fatto contenti anche i tre cultori di Don Ellis, quattro con il sottoscritto presenti in sala. No, è veramente la storia dell'incontro fra il jazz e il rock, è anche la storia di musicisti dimenticati o perduti o che non hanno mantenuto le promesse. Uno di questi è negli Stati Uniti Larry Coryell, un chitarrista ancora attivo, ma che a metà degli anni 60, quando si affacciò sulla scena newyorkese, era considerato il nuovo dio della chitarra. E ha ragione, perché era un musicista pazzesco che ha fatto delle cose pazzesche e che però poi nel corso dei primi anni 70 si è un po' perso dietro a delle cose più, diciamoci la verità, più scadenti, fino a scomparire totalmente dalla scena e a ricomparire tra l'altro di recente. Noi l'abbiamo avuto ospite del Festival del Jazz di Torino nella scorsa primavera. Vi assicuro che è alquanto diverso dalla foto che vedete qui sulla sinistra. Una cosa caratteristica del giro newyorkese della metà degli anni 60 è che come un po' come quello londinese, ma ancora di più, si basa molto sull'incontro fra giovani che hanno voglia di suonare insieme. E ci sono delle vere e proprie giri, che poi sono permeabili, ne vedremo due o tre. Uno di questi gira intorno a questi due musicisti. Uno ha avuto molta fortuna, come sapete, che è Gary Barton, e l'altro è Larry Coryell. Intorno a questi musicisti ci sono Steve Marcus, il sassofonista, un pianista neozelandese, di cui parleremo dopo, Mike Nock, il pianista Warren Bernard, che poi sarà negli Steps Ahead, il trombettista Randy Brecker, che conoscete tutti. Questi musicisti fanno jam session insieme, suonano continuamente insieme, sperimentano, imitano i Beatles, cantano pezzi con testi stranissimi, perché comunque cantare vuol dire, abbiamo detto, accattivarsi un pubblico più ampio, ma al tempo stesso giocano con delle strane sperimentazioni jazz. Per esempio il batterista Bob Moses fa parte di questo giro, per esempio il sassofonista Jim Pepper. E sono questi musicisti che in quartetto, insieme a Larry Coryell, nel 1966 pubblicano un album che si chiama The Free Spirits. Già il titolo, cioè il nome del gruppo dice tutto, gli spiriti liberi. Sono tutti musicisti qui meno che trentenni, hanno tutti 22, 23, 24 anni, che pubblicano un album, diciamo, surreale, con testi surreali e musica abbastanza surreale. È una specie di imitazione dei Beatles passata così al tritata con un po' di cipolla jazzistica, se permettete questa. E questo è uno di questi pezzi. Sentire il sax free. Everything is crystals in my mind. One chord down, operator. Can't you see? Doctor Strange is on the line. Come on, operator. Come on, operator. Outside and laughing, look around. Rendo conto che non è musica che passerà alla storia, insomma, scolpita nell'eternità, però c'è, come dire, un'audacia sbarazzina in questa idea di fare questo pezzo simil Beatles con il sax tenore che imita Albert Tyler. Cioè, chi magari si sarà avvicinato a questa musica in quegli anni l'avrà trovata quantomeno bizzarra, con Bob Moses che passa dal Charleston ai piatti, si ferma, riparte, è una cosa abbastanza curiosa. Questo spirito anche così iconoclasta, che si trova più nel mondo statunitense e meno nel mondo inglese, si ritrova nell'attività di un altro musicista dimenticato che fa parte del giro di Larry Coryell e di Gary Barton, cioè il sassofonista tenore e soprano Steve Marcus, che ebbe il suo quarto d'ora di celebrità. Lui è ancora più giovane, vedete, è nato nel 1939, proprio nella seconda metà degli anni 60 con un gruppo che si chiamava la Counts Rock Band. C'è la parola rock nel nome del gruppo, ma di fatto era un gruppo di jazz rock. E nel questo album, Tomorrow Never Knows, avrei potuto scegliere altri brani, ma sono tutti più lunghi. Ho scelto uno più breve, che è molto divertente, secondo me, rende bene lo spirito, ricorda anche quello dei Free Spirits, così, irriverente. Cosa fanno? Loro prendono praticamente una famosissima canzone dell'epoca, che è Mellow Yellow di Donovan, l'album è del 1967, come notate, l'anno chiave di questa nostra storia, e non vi dico che cosa ci fanno sopra, praticamente suonano il pezzo regolare, normale, anzi in maniera perfino più pesante e marcata di com'è l'originale di Donovan, che immagino avrete tutti in testa, e poi intorno lo boicottano. Cioè, mentre fanno il pezzo, ci suonano, Marcus in particolare col sax, boicotta completamente il pezzo suonandoci del free jazz sopra. Bello sguaiato. Larry Coryell. Thank you. direi che c'è una bella ironia in questo sommergere la canzone di Donovan, poi di caos praticamente, fino a farla scomparire, che è un'ironia che poi, diciamoci la verità, in questo tipo di operazioni che sono state fatte nei decenni successivi, si è un po' persa. L'altro musicista chiave che abbiamo citato è Gary Barton. Gary Barton dovremmo dedicargli una conferenza a parte sui rapporti fra jazz e rock, perché in realtà è stato uno degli uomini trainanti, oggi ce lo siamo dimenticati, ma a metà degli anni 60, essendo tra l'altro il più giovane, come vedete, del giro, è stato uno degli elementi trainanti dell'incontro fra il jazz e il rock. Non solo, Barton nel 1966 incise un album che si chiamava Tennessee Firebird, che era un tentativo di mescolare il jazz con qualsiasi genere che non fosse il jazz, il country, il pop, il rock, la canzone, qualsiasi genere. Ogni pezzo era di natura differente e nel 1967 realizzò un album che si chiamava Duster, da cui ascoltiamo questo brano adesso. Barton ce lo ricordiamo come il musicista che ha introdotto le quattro bacchette per suonare il vibrafono, che di solito era suonato solamente con due, quindi per introdurre una sonorità più ricca e più morbida sul vibrafono, ma è anche l'uomo che ha mescolato per la prima volta il country, degli elementi rock e la ricchezza armonica, soprattutto, del jazz. E lo ha fatto in complicità di Larry Coryell, che è il chitarrista che sentirete qui, insieme a Steve Swallow al contrabbasso e a Roy Haynes alla batteria. Addirittura nel disco precedente, Tennessee Firebird, Roy Haynes suona praticamente il country, quindi con uno stile, ovviamente, alla Roy Haynes molto, molto particolare. Barton poi in generale nel corso degli anni 60, primi anni 70, avrà prenderà una direzione ancora più convinta, decisa in questa fusione di generi diversi, che ha avuto una fortuna notevole del jazz. Ce ne dimentichiamo perché soprattutto a partire dalla sua collaborazione con Keith Jarrett tra il 70 e il 71, Barton ha aperto quel filone, chiamiamolo così, pastorale della musica jazz e pop americana, cioè l'idea di evocare il grande mondo agricolo dei grandi spazi o dei canyon del mondo americano, del paesaggio americano, che poi è stato ripreso più tardi, poco più tardi, da Jarrett nei primi anni 70, anche nei dischi con Gary Barton, e poi ancora da Pat Metheny negli anni 70 e poi 80, e in tempi più recenti da un musicista come Bill Frisell, per esempio. Ecco, l'iniziatore di queste atmosfere è proprio Gary Barton. Larry Coryell. Thank you. Ecco, io oggi ho avuto la conferma che la platea delle lezioni di jazz è colonizzata da una platea di rocchettari, perché di solito a quest'ora la gente comincia ad andare via perché è tardi, è l'ora di pranzo, vicino invece nessuno si muove. In realtà io avrei ancora moltissime altre cose da farvi ascoltare, però mi rendo conto che è un po' tardi. Allora salto qualche passaggio, non senza però avervi spiegato che cosa salto. Intanto non vi faccio, diciamo, non vi faccio ascoltare il gruppo di Dave Pike, però vi dico di cosa si tratta. Nel novembre del 67 Gary Burton va a suonare col gruppo che avete sentito a Berlino, succede un macello, il pubblico è entusiasta di sentire, soprattutto i musicisti, di sentire qualcuno che sta mescolando atmosfere country e rock con il jazz, e stimola la nascita di un gruppo in Germania con il vibrafonista americano che però viveva in Germania, Dave Pike. Il suo gruppo si chiama Dave Pike Set, che è un quartetto con tutti i musicisti tedeschi, tranne lui. E tra l'altro il chitarrista Volker Kriegel, qui adesso non lo ascolteremo, è uno dei primi nel mondo a utilizzare la chitarra wah-wah, cioè applicare questo pedale, questo effetto parlato che veniva dalle tecniche degli ottoni del jazz degli anni 20, anzi dal jazz di New Orleans, di modificare il suono facendo parlare l'ottone, applicato attraverso uno specifico pedale alla chitarra. Proprio nel Dave Pike Set, alla fine degli anni 60, si sente Volker Kriegel suonare la chitarra con questi effetti. Poi c'è un altro giro su cui non mi soffermo momentaneamente, che è quello di... Eccolo qui, del vibrafonista, ancora vibrafonisti, Mike Mainieri, che è ancora fortunatamente vivo, dico fortunatamente perché ha avuto dei seri problemi di salute di recente. E Mainieri aveva un, voi ve lo ricorderete poi come il leader degli Steps Ahead negli anni 80, no? Cioè avete presente quel famoso gruppo Fusion, ma in realtà Mainieri ha un ruolo ancora più importante, perché intorno alla metà degli anni 60 aveva uno studio che si chiamava New Music, dove lui tra l'altro produceva musica per spot radiofonici, televisivi, film, eccetera, che però era diventato un posto dove si ritrovavano i musicisti più diversi. C'erano Warner Bernard, che poi sarà il pianista degli Steps Ahead, il sassofonista Ronnie Cuber, Randy Brecker, Michael Brecker, i due famosi fratelli Brecker, Eddie Gomez, che poi entrerà nel gruppo di nel trio di, no, era già nel trio di Bill Evans, Tony Levin, Steve Gadd, tutti i nomi che poi faranno il rock o la fusion degli anni 80 sostanzialmente, sono in realtà tutti giovani che si ritrovano nello studio di Mike Mainieri negli anni, a metà degli anni 60. Questi musicisti, tra l'altro, incidono un cosiddetto White Elephant, un album che si chiama White Elephant, che non ascolteremo. Questo è il giro, tanto per farvi vedere, Mainieri è il terzo da sinistra in piedi, e in basso vedete accovacciati a sinistra Randy Brecker e il compianto Michael Brecker al centro. Questi sono, era il giro dei musicisti che frequentavano appunto gli studi di Mike Mainieri, e sono fondamentali perché questi, di nuovo, come nel giro di Larry Correal, si ritrovavano per suonare insieme. E hanno mescolato jazz e rock per ragioni generazionali, semplicemente improvvisando. In questo c'è qualcosa di affine alla nascita del bebop. In fondo il bebop come è nato? È nato nei club di Harlem, durante gli anni della Seconda Guerra Mondiale, attraverso le improvvisazioni di giovani musicisti che si confrontavano senza rete, a ruota libera, su idee nuove. La fusione fra jazz e rock è avvenuta nello stesso modo. Giovani, curiosi, aperti e interessati alle cose più diverse, dalla musica elettronica europea ai Beatles, a John Coltrane, al free jazz, si ritrovano insieme e provano a sperimentare. Siccome vi ho detto che la storia del jazz rock è una storia di figure mancate o dimenticate, vorrei pagare un omaggio ascoltando un brano di Jeremy Stig, che faceva parte del giro di Mike Mainieri. Stig è un flautista, non chiedetemi che fine abbia fatto perché non ne ho la più pallida idea, è un po' come Larry Correale, è uno che poi negli anni '80 si è perso dietro musiche anche più banali ed è scomparso dalla scena internazionale, ma è stato un flautista eccezionale. Ha inciso anche un famoso album con Bill Evans, che forse qualcuno conosce, e in particolare il suo album dell'anno che a noi ci interessa, e cioè il 1967, Jeremy Stig and the Satyrs, contiene della musica molto interessante. Il pianista è Warren Bernard, il bassista è Eddie Gomez, e vi vorrei farvi sentire questo pezzo dove Stig si sovraincide con il flauto. Lovely Child of Tears. Giusto un accenno, non so se la foto come dire, è una delle spiegazioni per cui Jeremy Stig è sparito dalla circolazione, però ci avviamo verso la conclusione. Avrete notato fin qui che io non ho mai parlato, forse qualcuno sarà rimasto deluso, di Miles Davis. Abbiamo citato un sacco di musicisti, ma tutti ci raccontano che il jazz rock in fondo l'ha inventato Miles Davis. Non è del tutto vero, vedete che siamo scesi in maniera, credo, capillare tra le pieghe delle sperimentazioni in Inghilterra, negli Stati Uniti e avete visto in parte anche in Germania, alla fine degli anni 60 non abbiamo mai fatto il nome di Miles Davis. In realtà Miles Davis in tutta questa storia è un'anomalia, perché Miles Davis è un musicista generazionalmente diverso dagli altri, perché è nato nel 1926, nel 1967 ha 41 anni, è uno che dovrebbe essere fuori dal giro. E quindi in realtà Davis riesce a entrare nel giro per un motivo molto semplice. È il presidente della Columbia, Clive Davis, che gli dice Io ho licenziato Duke Ellington, Louis Armstrong e altri grandi musicisti di jazz, perché non faccio più soldi, ora faccio i soldi con i Jefferson Airplane, faccio soldi con Bob Dylan e con altri. Se vuoi rimanere nella casa discografica devi vendere tot dischi, se no fuori. Gli fece questo, lo stesso Davis ce lo racconta, gli fece questo semplice discorso. Davis allora capì che doveva avvicinarsi al pubblico del rock ed è stato l'unico musicista della sua generazione a farlo con genio e intelligenza. Si circondava di giovani musicisti formidabili, un paio di questi, gli ultimi due che vedete, De Jonette e Keith Jarrett, venivano da un altro musicista di cui non abbiamo parlato, che è il sassofonista Charles Lloyd, che era più un fenomeno, diciamo, di cassetta più che altro, che un fenomeno autentico. Vedete un giovanissimo Jarrett, un giovanissimo, un bambino, De Jonette, e il bassista Ron McClure, ma in realtà è nel giro di Davis che noi abbiamo, diciamo, Davis riesce a mettere insieme tutti questi musicisti. Ora, alcune cose le abbiamo dette, io vedo che è tardi, non voglio insistere, però vorrei ricordare almeno, anche se non l'ascoltiamo, alcuni dischi fondamentali, cioè In a Silent Way, di cui abbiamo ascoltato qualche frammento prima. In a Silent Way, vale la pena di ricordarlo, è un disco fondamentale in tutto questo fermento, che arriva un po' tardi, nel 69, per un motivo molto semplice, che Davis ha un'intuizione geniale. Riesce a prendere i groove del rock o del soul, per esempio quelli dei bassi, dei pezzi di James Brown, e a utilizzarli, come negli esempi che abbiamo sentito prima, in atmosfere statiche, cioè mescolare una cosa che i musicisti di rock non erano ancora riusciti a mettere a fuoco, cioè, e neanche quelli di jazz, ben inteso, cioè unire il dinamismo ritmico del rock con certe atmosfere sospese del jazz. Per la verità, Jeremy Steig, avete sentito prima, c'era andato vicino, questo lirismo un po' sospeso, pur con un andamento ritmico più marcato. Ma In a Silent Way rappresenta veramente l'apoteosi di questa sintesi impossibile tra estasi e trance, tra stasi e danza, in un certo senso. Apoteosi che in realtà, secondo me, tocca il vertice in un altro album che non ascolteremo, perché devo dire mi potrei vergognare anche a proporvi l'ascolto di Bitches Brew, anche se avrei voluto farvi ascoltare, magari lo faremo in un'altra occasione quando faremo magari una conferenza, perché no, un prossimo anno sempre proprio su questo disco, perché in Bitches Brew Miles Davis mette a punto ulteriori elementi come quelli della polifonia, del far suonare tutti insieme gli strumenti e della costruzione di una forma attraverso segnali sonori, cioè utilizzando la tromba per cambiare atmosfera, che è una cosa di estrema audacia. Peraltro il quintetto di Davis poi prenderà una deriva molto più sperimentale, che qui non ascoltiamo, e naturalmente dal quintetto di Davis poi usciranno dalla costola di Davis vari gruppi, su tutti ovviamente i Weather Report. Ma in realtà i Weather Report, vi anticipo subito, non sono un prodotto originale, andrebbero ascoltati e riscoperti, per esempio i californiani Fourth Way, perché non mi compare l'immagine, non ve lo so dire. Vabbè, c'è qualche problema, ma tanto non ve li faccio ascoltare. I Fourth Way sono un gruppo, un quartetto californiano che anticipa in maniera clamorosa i Weather Report, ma in realtà alla fine quello che io vorrei farvi sentire è come il rock ha assimilato tutta questa tensione sperimentale e l'ha ritradotta in un prodotto originale. Ci sono due gruppi che secondo me hanno ritradotto in chiave originale sperimentale questa fusione fra jazz e rock. Un gruppo sono i Grateful Dead, e non vi faccio ascoltare, così tanto per fare una giornata così virtuale, ma vedo che è 1:50 e non voglio essere linciato prima dell'ora di pranzo. Ma insomma, parliamo di dischi fondamentali, da Live Dead 1969, andatevi a riascoltare la prima parte di Dark Star. È veramente una mescolanza di free jazz, sound sperimentale, improvvisazioni estese, dentro una struttura formale a pannelli, a suite, come quella che abbiamo descritto fin dai Colosseum. Ma poi soprattutto il gruppo che abbiamo più volte evocato, e cioè i King Crimson, e vorrei concludere con loro perché mi sembrano anche qualitativamente la cosa più clamorosa. Noi ascolteremo adesso una registrazione dove non c'è Jamie Muir alle percussioni, ma ve l'ho messo nella foto perché Muir è un perfetto esempio della porosità della musica. Era un percussionista che ha lavorato per un certo periodo, nei primi anni 70, con i King Crimson, ma collaborava contemporaneamente con la scena radicale del free jazz inglese, con Evan Parker e Derek Bailey. E alcuni di questi musicisti hanno anche lavorato con i musicisti sudafricani intorno a, per esempio, a Harry Beckett o Louis Moholo. Questo per dirvi ancora una volta che il risultato di questa musica è la totale mancanza di barriere. Quelle barriere le hanno costruite, lo dico senza polemica, i critici, i produttori, l'hanno costruiti coloro che credevano nelle barriere, ma i musicisti queste barriere in testa, in quanto musicisti, non le hanno mai avute. E il risultato può essere, per esempio, un capolavoro come la raccolta di live dei primi anni 70, The Great Deceiver, dei King Crimson, da cui vi faccio ascoltare un frammento per concludere. Dove c'è tutto, sperimentalismo sonoro, free, ampiezza della forma, musica indiana. E libera improvvisazione, che è un'eredità del jazz. Thank you. chiedere di sfumare l'audio, grazie. La lezione, secondo me, generazionale del jazz, di quello che è successo alla fine degli anni 60, fra il 67 e il 69, con tutte le derive poi dei primi anni 70, alla fine è questa. Cioè, se vedete dei musicisti giovani che superano le barriere che abbiamo in testa e tendono a mescolare le cose, allora vuol dire che sta accadendo qualcosa di interessante. Grazie per la vostra pazienza.